tutto perché siamo in arrivo e quindi iniziamo a scaricarci la roba, Va bene, vediamo se ascoltiamo Uranio adesso, vai avanti Uranio. Uranio, a me mi sembra che di cartone. Sì, riprendo, quindi però non è capito Gianni, perché è arrivato lì forse tu, c'è un segreto, Uranio, non hai capito ancora, perché è una dinamite, ecco perché arriva così Gianni, vero è già? Sì, io ho già, sto pure nel banco, ti conosco di nuovo, c'era un sacco di casino dall'estate, adesso mi pido un po' a pulire il tavolo, allora c'è anche polvere che io mi chiamo il pulito nessuno tu perché non potevo fare nulla, hai capito, me lo sto mettendo a posto, capito, tutto buttato lì sopra e niente, adesso sto usando il baracchino lavorato, 40 cani, tutto lì. E palla grande, poi non ho allineato il CCB, quello lo sapevo già, però non tocco nulla perché il 27 si fa sentire e lo lascio così, non penso manco per sente. Allora proviamo a rilanciare a Nino 1 e a Nino 1. Dove ti trovi dentro Sassari, dove Nino? No, sono ancora al bivio di Alghero qua, ancora al 131, fra... Ecco qua, Brico me, Brico, eccetera, eccetera, e comunque sto svincolando per Viale Umberto, vai. Stiamo svincolando per Viale Umberto. Va bene, dai, ok, ci sentiamo alle prossime, dai. Tu e Gianni state ancora arrivando a Scheggia qua, tutto ok. Va bene, alle prossime, dai, Nino Uno che vi saluta e vi cordializza. Se mi siete di canotte, quando sono rientrando, non siamo già in tenda, ci sono a casa, va. Ok, ciao. Ok, ciao, Nino, già ci siamo stanotte. Hai capito, tu cercaci, già ci siamo, non dava problema, va. Attenzione, quindi, Gianni, trova e due saluti a Nino, poi vi lasceremo a Uranio. Gianni, vai per me se ti ascolto, la chiamavoti lì. Centro sono dove Gottardo in gomma, qua praticamente la seconda rotonda per girare alla Teroce qua, e comunque già stai arrivando alla grande qua, vai. Ok, ciao di nuovo, ciao. Thank you. Lorenzo che mi ascolta. Saluto Uranio e Capri 2, buonasera. E ciao Massimiliano, se mi ascolti, buonasera, ti ho sentito dopo tanto. E a voi anche ti ascolto, non so se invece mi ascolti tu lì in quei paraggi, in quei pressi, ti rimetto il cambio e tu rilancerai per Uranio. Avanti Massimiliano con la buonasera, Capri 2 ti rimette il cambio, vai. Oh già, buonasera, ben ascoltato dopo la marea di tempo. Allora, ti ascolto con un segnale di 0 e la radio di 4. Senza segnale, capito? Però ti ascolto abbastanza bene di radio perché non c'ho QRM. Avanti Uranio, se mi ascolti, buonasera. Positivo, dai, questo qui è proprio un lecca-lecca, capito? Questo è un F22 come microfono palmare amplificato con il Galaxy Uranus. Ti ascolto con un segnale di 1, la radio di 3. Certo che ti ascolto, con un Santiago di 7-8 e la radio di 5 perfetta, 5 perfettissimo, anzi non perfetta. Già, io mi sono seduto guardandomi anche un pezzetto di Formula 1 che stanno iniziando le prove, capito? Niente, stanno iniziando la prima sessione di prova, capito? E stanno appena iniziando a uscire fuori le macchine. Ma comunque, a basso volume, me la sto guardando. No, a me la verità già piace, no, dai, no, non è un problema. Perché Uranio, non ti piace questo microfono, quindi lo tolgo? Sì, ciao Uranio, ora buon pomeriggio e ci sentiamo anche sul tardi, se entri già siamo qui, almeno io poi in Sicilia me ne sto qui alla radio. E rimetto a Massimiliano e immagino che adesso mi direi che qualche cosa di Santiago la leggi, confermi Massimiliano. Positivo, positivo. Ciao Uranio, buona serata e buona continuazione di serata. Ci sentiamo alle prossime. E buon QRT. Sì, la vedo, ma sei saturissimo, capito già, saturo al massimo. Il segnale è salito a 7, da niente a 7, però sei saturo di radio. Dinamite, parte il microfono per i saluti. Gianni Dinamite. Ciao, stavo facendo un lavoro in questo apparato e perché c'aveva un piccolo problema che strappava un po', non lo so, dammi un attimino di se sta strappando, solo voglio sapere se è chiaro. Ma se ho finito adesso di fare una saldatura, ho fatto una specie un punticello, ho fatto una piccola cosa, dai, e volevo sapere se era a posto. Massimiliano, guarda adesso con tutto il Michigan aperto, salutando anche Capri 2, Massimiliano, se strappa adesso così. No, adesso stai andando bene lui. A volte capita, quando stai quasi finendo la parola, che tu hai un piccolino di spettestamento c'è. Sì, ho già Gianni Dinamita, stavamo mettendo a posto con Gigi e usciva tutto spezzettato, adesso l'ha sistemata, capito? Non è che gli abbiamo detto, che gli ho detto soltanto, capito? Tutto lì. Ok, riprendi Gigi. Così positiva, no, l'ho provato a aprire tutto il Michigan e Massimiliano, gli ho fatto un'altra cosa, gli ho messo un trim diverso, dai, provato con un trim e gli ho regolato, ho provato a regolarglielo così, dai, e non innesca e va bene, adesso può chiuso il Michigan però, Ma la radio va bene, io la sento forte perché sono vicino, capito lui? La radio va benissimo, io adesso non stai né aspettando né niente, adesso la radio va bene. Sicuramente in lontananza non so come ti ascoltano, però già Gianni ti ha detto che ti ascolta bene. Infatti dal controllo da Capri 2 che c'è anche lui, ne vede un po'. Positiva, no, era tu, adesso era, volevo capire se aprendo tutto il Michigan e strappavo, adesso l'ho tutto aperto Massimiliano, l'ho tutto aperto. No, no, non stai strappando lui, adesso stai andando benissimo. Scusate questo ping pong, No, no, sta andando bene. Positivo, allora ho trovato il sistema, dai, gliel'ho buttato lì da 12, l'ho regolato. Niente, ho messo un trim, niente, facendo questo potenziello col trim, le ho provate tutte, dai, e tu glielo perfettamente, dai, riprendete, scusate, scusa che ce l'ho aperto in mano, ho sentito rischio, ecco, si avvicino molto al microfono, sì, va bene, dai, riprendete Gianni Dinamite che la chiudo. Io lo sapevo, c'è già quello che stai per dire, vai. Levato è? Non te lo so dire, non sai perché? Perché io sono già da fine agosto che sono sempre fuori facendo le fogne, capito? Siamo al campo sportivo di Bancali, quindi stiamo salendo verso il carcere, quindi sono quasi 2 mesi che non entro dentro, capito? Quindi non so niente, però so che stavano togliendo quei mucchi di materiale che c'erano davanti alla guardia, perché doveva arrivare lui. No, ma ieri, la verità, ieri mi hanno chiesto se potevo venire, ero impegnato oggi che gli ho detto che non potevo venire, capito? Proprio sicuramente perché doveva arrivare lui, però ti ripeto già, sono 2 mesi che non ci entro dentro. E tu che sei dentro lo sapresti meglio di me, lo sai meglio di me. Ah, positivo, positivo. E infatti per i tuoi colleghi a te non ti ho più visto. Sicuramente adesso mi dice, no Massimiliano, non per dire per te, trovate, no perché poco fa la stavamo sistemando assieme quella radio, e ti ho detto, no chi te l'ha detto, ti ha detto, trovate che uscivi spettacolo, no prima che la sistemassi usciva così, capito, credo che stavi dicendo quello. Qualche tipo, poi fanno un attacco attento, comunque devo dire che il microfono la strappa poi Gianni riprendi di nuovo, poi saluti a Massimiliano. Ciao, sto chiudendo questo, sto dando anche Gianni K2, che sto chiudendo questo apparato. Controllalo adesso, allora, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, niente, sei salito a 9 improvvisamente. Mi è stato un sei, non è soccorso, il deviatore di antenne. Ok. Tutto sei. Cos'è quando questa festa? Lo capo glielo dico domani. Lo sai che fanno la festa dove è piazzato la locomotiva. Bisogna di fatto, la prossima volta parteciperà se sa. Gianni Lenanni e Dulcis in fondo sta facendo una serata dopo tanto tempo, Francesco Falcini. Ma Maria Giovanna Kirchi, tua, così si chiama tua moglie? Oh, vieni, che non bisogna più su me. Sono salito così un attimino per vedere cosa poteva essere, dai. Tutto bene, tutto a posto, ci sentiamo dopo, dai, ok?